Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Quando tu cambi 63 governi in 70 anni, non fanno in tempo nemmeno a riconoscere la tua faccia nei vertici internazionali, che già ce n'è un altro. Quando la cronaca politica parlerà di questi ultimi due anni, non la storia, la cronaca politica, vedrà un Parlamento che improvvisamente, come se si fosse svegliato, come se fosse uscito da un incantesimo, ha iniziato a fare delle cose. Il dato di fatto oggettivo è che questo lavoro di due anni ha prodotto un cambiamento radicale. È così secondo voi, cari ascoltatrici, cari ascoltatori? Questi due anni di governo Renzi hanno prodotto un cambiamento radicale? Renzi oggi era a Firenze a lanciare la campagna per il referendum costituzionale che ci sarà a ottobre e ha ricordato che, almeno dal suo punto di vista, questi due anni di governo hanno cambiato radicalmente le cose. Voi che bilancio fareste di due anni di governo Renzi? Lo sapete che i vostri due canali privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi, per i WhatsApp, che è il 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666, se no comodamente la pagina Facebook di Effetto Notte. Parleremo di varie novità oggi che riguardano dei casi particolari, quello dei Marò, perché oggi è arrivata la sentenza, in realtà è stata anticipata, dovrebbe arrivare domani questa sentenza del Tribunale Internazionale dell'AIA, secondo la quale il Marò, che ancora Salvatore Girone, che è ancora in India, dovrebbe tornare a breve in Italia. Il braccio di ferro in realtà continua con l'India, ne parleremo e capiremo anche in che termini, in che tempi sarà in Italia e poi quali saranno le prossime tappe in questo arbitrato, che ormai è diventato un arbitrato internazionale, tra India e Italia. E poi ci occuperemo, anche torneremo a occuparci del caso terribile della bimba di Caivano vicino Napoli, violentata e buttata giù dal balcone, dall'ottavo piano. Ormai è quasi certo che la vicenda è andata in questo modo. Si parlava, quando successe nel 2014, di un incidente, ma un anno prima era successa la stessa cosa a un bambino, sempre nello stesso palazzo, e sembra purtroppo, dalle prime mosse di questa inchiesta, che ci sia proprio una rete di pedofili in quel palazzone dalla quale sono stati buttati giù questi bambini. E poi c'è anche una storia bella, tanto per sollevarci un po' l'animo, di una squadra calcistica della Gran Bretagna che stava in Leicester, che aveva iniziato il campionato in realtà diciamo puntando alla salvezza, e sembra che potrebbe diventare questa squadra campionessa d'Inghilterra. Ne parleremo nel corso di Effetto Notte, un sacco di notizie come sempre. Non perdete nessun istante di questa puntata iniziale di lunedì, come sempre durante la settimana, e intanto vi riassumo le notizie più importanti della giornata. La vicenda dei Marò, la Corte dell'AIA ha deciso che Girone tornerà in Italia, Renzi commenta, è una notizia straordinaria, ma il braccio di ferro non è ancora finito. Banche, salta la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza, oltre il 99% verrà sottoscritto dal Fondo Atlante. Politica, Renzi apre la campagna per il referendum e dice, dopo 63 governi ora si cambia. Il caso della bimba di Napoli, sarà riesumato il corpo del piccolo Antonio, che morì in circostanze simili a Fortuna Loffredo. Almeno 5 bimbi vittime di abusi nel Palazzo dell'Orrore. Salvini chiede la castrazione chimica. Migranti, la Danimarca estende di un mese i controlli alle frontiere. 6 paesi europei chiedono una proroga sui controlli straordinari, ma sul Brennero la posizione austriaca si ammorbidisce. Sentenza della Cassazione, a Genova un senza tetto ruba per fame, non è reato, nulla la condanna per furto di 4 euro per wurstel e formaggio. Calcio, in campo due posticipi di Serie A, la Roma ha giocato a Genova, in realtà il risultato è arrivato adesso, 3-2 per la Roma sul Genoa. E poi il Napoli ospita l'Atalanta, è sceso in campo più o meno da un quarto d'ora, e il Leicester che sogna di diventare campione d'Inghilterra. Partiamo quindi dalla vicenda dei due Marò. La Corte internazionale dell'AIA ha deciso che Salvatore Girone, il fuciliere di marina ancora in India per l'accusa di aver ucciso insieme a Massimiliano Latorre due pescatori indiani in un'operazione antipirateria, tornerà in Italia. Renzi commenta, è una notizia straordinaria, però come vi dicevo questo contenzioso tra India e Italia ancora avrà diverse tappe e diverso tempo davanti. Capiremo poi più tardi perché. Intanto parliamo della Borsa italiana che non ha approvato la quotazione della Popolare di Vicenza, decisione attesa da molti addetti ai lavori, ma che comunque mette ulteriore pressione al sistema bancario che oggi torna a soffrire in borsa. Il Banco Popolare è stato il peggior titolo con una perdita del 7,3%. Popolare di Milano meno 6% in un mercato che ha perso complessivamente l'1%. Non sussistono i presupposti per garantire il regolare funzionamento del mercato. Queste due semplici righe di comunicato di Borsa Italiana bloccano l'approdo della Popolare di Vicenza a Piazza Affari. Il regolamento di borsa prevede infatti un livello minimo di flottante pari al 25% del capitale per garantire l'adeguata liquidità del titolo. Per l'ingresso sul listino doveva essere riconosciuta come flottante la quota detenuta dal Fondo Atlante, ma in questo caso si tratta in concreto di una partecipazione di controllo nella banca vicentina. Sulla base dei risultati dell'offerta globale, oltre ad Atlante, il pubblico indistinto sarebbe pesato solo per lo 0,36%, gli azionisti per il 2,86%. A questo punto l'aumento di capitale sarà comunque in capo ad Atlante per 1,5 miliardi che deterrà così oltre il 99% dell'istituto. Il piano di riassetto della Popolare resta in tutto il suo valore, così come l'ingresso in borsa potrà avvenire in un secondo momento. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sono stati illustrati più nel dettaglio oggi gli investimenti approvati ieri dal CIPE, cioè il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, 2,5 miliardi per la ricerca e 1 miliardo per i beni culturali italiani. Aerospazio, Agrifood, Salute e Industria 4.0, questi cardini del Piano Nazionale della Ricerca da 2,5 miliardi di euro varato grazie al finanziamento del CIPE. 6 le linee di azione, spiega il ministro dell'Istruzione e della Ricerca Giannini. Il capitale umano, più sinergia pubblico-privato, sud, internazionalizzazione, più trasparenza e basta con finanziamenti a pioggia e su microprogetti. Sottolineo che mettiamo più 25% di risorse rispetto alla programmazione che era già pianificata e che per legge sarebbe stata assegnata, sì. Quindi è un primo passo. Un programma che rappresenta un pezzo importante di una visione di politica industriale di lungo termine per il nostro paese, dice il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Marco Gai. Sicuramente può avere delle ricadute importantissime, fatte innanzitutto di PIL, perché nel momento in cui l'innovazione viene inserita in azienda crea un aumento di quella che è la produttività. Il ministro è poi intervenuto sulle polemiche relative al concorsone in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di ammettere alle prove alcuni docenti senza abilitazione. Nessun impatto, nessun rischio caos, tutto procede con regolarità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo adesso all'esordio della campagna per il referendum costituzionale di ottobre. La sfida è tra l'Italia che dice sì e quella che dice sempre no. Il premier Matteo Renzi lancia la campagna in vista del referendum di ottobre sulle riforme costituzionali. Finalmente con questa riforma costituzionale si modifica il Senato come l'abbiamo immaginato. Non c'è più i senatori, non ci sono più. È la prima volta al mondo che i senatori votano per la loro abolizione. È la prima volta al mondo che il tacchino vota per anticipare la festa del ringraziamento. Ma è un grande segnale, è che la classe politica è disponibile a rinunciare a delle poltrone. A quelli che dicono che la nostra riforma è contro i padri costituenti, diciamo che invece stiamo realizzando quello che loro volevano, che non era il bicameralismo paritario. L'opposizione però attacca per Luigi Di Maio, Renzi lancia la campagna per il referendum costituzionale ad ottobre perché ha paura delle comunali a giugno, mentre Renato Brunetta è convinto che vincerà il fronte del no, come rivela un sondaggio Euromedia in cui il no è al 52% e il sì al 48%, così il capogruppo di Forza Italia. Segneremo un bel no, oltre che per dire no alla riforma costituzionale, alla legge elettorale, per mandare a casa Renzi. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E intanto stanno arrivando i vostri messaggi, sms, whatsapp, messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte su il bilancio che voi fate di questi primi 2 anni del governo Renzi, visto che lui appunto in questa dichiarazione ha detto oggi, lanciando questa campagna referendaria, che i 2 anni del suo governo hanno radicalmente cambiato le cose. Pagina Facebook di Effetto Notte oppure scrivete al 349-238-6666 che è il numero per i messaggi e per i whatsapp. E intanto c'è anche da ricordare che c'era il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questo pomeriggio alla Scala di Milano per la cerimonia dei 150 anni del Sole 24 Ore. Mattarella ha posto l'annullo sul francobollo che commemora l'iniziativa. È il giornale che si sforza di garantire un racconto veritiero del Paese e un affaccio mai banale sui fatti del mondo, cioè ha un po' un linguaggio diverso dagli altri. Roberto Napoletano, da 5 anni direttore del Sole 24 Ore, lo ripete più volte. Il nostro è un giornale diverso perché si esprime con pochi aggettivi e molti numeri, e i numeri hanno un cuore e un'anima che ci permettono di raccontare l'Italia. Lo spiega nel documentario che celebra i 150 anni del quotidiano e lo ribadisce dal palco della Scala di Milano. Ad ascoltarlo 1600 persone, tra loro il Presidente della Repubblica Mattarella, i ministri Madia, Padoan e Franceschini, e poi banchieri, imprenditori, personaggi dell'industria e della finanza, politici. Il direttore dedica Lo ha detto il sole, così si chiama il film documentario, al vice direttore Fabrizio Forché, scomparso un mese fa. Ringrazia i direttori passati che hanno costruito la storia mattone dopo mattone, ringrazia tutti i presenti e l'editore perché ha sempre garantito la libertà del giornale. Un giornale partito il 1 agosto 1865 come Sole e diventato 24 ore nel 1946. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È partita oggi la fase 2 del 730 precompilato. Fino al 7 luglio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730 online e trasmetterlo all'agenzia direttamente dal proprio computer. Dal 15 aprile ad oggi gli accessi per la visualizzazione della dichiarazione precompilata sono stati oltre 1.800.000. Adesso invece parliamo del quello che è stato definito TTIP, che sarebbe il trattato di libero scambio commerciale tra Europa e Stati Uniti, in piena fase negoziale e al centro però di una forte controversia dopo le indiscrezioni di Greenpeace sullo stato delle trattative. Esplode il caso TTIP, il trattato di libero scambio commerciale transatlantico su cui Europa e Stati Uniti lavorano intensamente per arrivare a un accordo entro la fine della presidenza Obama. A far trapelare alcuni documenti riservati, redatti nelle trattative segrete che Washington e Bruxelles stanno conducendo, l'ultimo round si è tenuto alla fine di aprile, è stata l'organizzazione ambientalista Greenpeace, che ha pubblicato 248 pagine contenenti 13 capitoli negoziali. Secondo Greenpeace, che si oppone al TTIP, la bozza d'intesa abbasserebbe gli standard ambientali e di sicurezza alimentare in Europa. Washington starebbe esercitando forti pressioni per rimpiazzare l'attuale principio precauzionale che impedisce la commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute con un approccio meno stringente, e starebbe anche cercando di abbattere le barriere esistenti sulle OGM in Europa. Greenpeace accusa il trattato rischia di portare le grandi multinazionali al centro della legislazione comunitaria a scapito di salute e ambiente. Da Bruxelles e Washington immediato il fuoco di sbarramento. L'allarme odierno mi sembra una tempesta in un bicchier d'acqua, ci sono troppi malintesi, ha replicato la Commissione europea. Per il capo negoziatore comunitario García Bercero, alcuni punti sottolineati da Greenpeace sono palesemente sbagliati e anche la controparte americana parla di indiscrezioni fuorvianti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Immigrazione, la Danimarca ha deciso di prolungare di un mese fino al 2 giugno i controlli alla frontiera con la Germania per contenere il numero di profughi, perché la Danimarca teme che i migranti non proseguano per la Svezia e rimangano invece nel paese. E di immigrazione ha parlato anche la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva, che annuncia entro il prossimo mercoledì avremo pronta una risposta ai 6 paesi membri in merito alla proroga dei controlli straordinari alle frontiere. Bruxelles deve fornire un parere entro al massimo 12 maggio. A chiedere questa estensione sono state Austria, Germania, Francia, Belgio, Danimarca e Svezia. Nel frattempo la ministra della difesa tedesca, Ursula von der Leyen, ha detto che la soluzione al problema della difesa delle frontiere esterne dell'Unione Europea deve essere trovata insieme all'Europa e, per quanto riguarda la frontiera meridionale, insieme all'Italia. Siamo alla cronaca. Col caso della bimba di Napoli sarà riesumato il corpo del piccolo Antonio Giglio, il bimbo di 4 anni che morì in circostanze simili a Fortuna Loffredo, la bambina di 6 anni violentata e gettata dall'ottavo piano di un palazzone nel Parco Verde di Caivano, vicino Napoli. L'inchiesta procede dopo l'arresto venerdì di Raimondo Caputo. Almeno 5 bambini vittime di abusi nel Palazzo dell'Orrore, e Salvini intanto chiede la castrazione chimica. Anche questo è un argomento sul quale vi siete molto espressi venerdì e sul quale, se volete, potete continuare a farlo sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Per quanto riguarda il caso Regeni, il presidente egiziano starebbe cercando una via d'uscita sul caso di Giulio Regeni, addossando la responsabilità della morte del giovane italiano trovato cadavere a Cairo lo scorso 3 febbraio al suo ministro dell'interno. Questo almeno è il tantam sui social media egiziani, rilanciato poi dalla TV satellitare Al Jazeera, che manda in onda un'intervista di un noto oppositore di Al-Sisi, del presidente egiziano, da molte parti indicato come la gola profonda che ha diffuso per primo i particolari raccapriccianti sulle torture subite da Regeni. E c'è una sentenza della Cassazione in Italia particolare. Il fatto non costituisce reato. Per questo motivo la Cassazione ha annullato completamente la condanna per furto inflitta dalla Corte d'Appello di Genova a un giovane straniero senza fissa dimora, affermando che non è punibile chi, spinto dal bisogno, dalla fame, ruba al supermercato piccole quantità di cibo per far fronte all'imprescindibile esigenza di alimentarsi. Con questo verdetto la Cassazione ha giudicato legittimo non punire un furto per fame del valore di 4 euro per wurstel e formaggio. E poi una scoperta: sono stati trovati 3 pianeti simili alla Terra, potrebbero ospitare la vita. Identificati questi 3 pianeti fratelli del nostro pianeta, potenzialmente in grado di ospitare la vita, ruotano intorno a una stella nana più fredda del Sole, chiamata TRAPPIST-1, che si trova a soli 40 anni luce da noi, nella costellazione dell'Acquario. La scoperta è annunciata su Nature da un gruppo internazionale di astronomi guidato dall'Istituto di Astrofisica e Geofisica dell'Università di Liegi in Belgio. Poi, quando si dice che possono ospitare la vita, ci si chiede sempre se prima o poi qualcuno intenda traslocarci altrove dalla Terra. Per chiudere lo sport, Sergio Marchionne sarà anche l'amministratore delegato della Ferrari. Marchionne sostituisce Amedeo Felisa, che lascia la società dopo 26 anni ma rimarrà nel consiglio di amministrazione. E per il calcio ci sono 2 posticipi della Serie A, uno già ve lo davo, Genoa-Roma, con la Roma che ha vinto 3-2, e poi c'è in campo Napoli-Atalanta. Alla stessa ora in campo, li vedo adesso, sono Chelsea-Tottenham in Gran Bretagna. Se i bianco-blu non dovessero vincere il Tottenham, allora il titolo della Premier League, quindi del campionato inglese, andrà all'Leicester di Claudio Ranieri, che a quell'ora sarà però in aereo lui in rientro dall'Italia per andare a cenare con la mamma Ranieri. Direi che prima di lasciarci per questo primo aggiornamento per chi viaggia, volevo leggere qualcuno dei vostri tantissimi messaggi che stanno arrivando sul bilancio di questi primi 2 anni del governo Renzi. Luciano Garofalo dice: io so soltanto che in giro la situazione non è cambiata molto, la crisi ce la portiamo dietro e non molla la sua presa, nonostante il basso costo del petrolio e il tasso di soldi che le banche prestano a stento. L'economia non riparte, soffocata da una burocrazia assurda. Sergio dice: un governo così vergognoso non si era mai visto, un buffone alla corte dei lobbisti. Poi Andrea: un governo che non fa a bozza e basta, come i giri che si fa per il sud firmando patti inesistenti. Poi c'è Lidia che dice: cara Roberta, i nostri vecchi dicevano chi si loda si imbroda, Renzi se ne ricordi. Allora 349-238-6666 per i vostri messaggi, sms o whatsapp, e poi come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi giorno e notte. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E Roberto Giordano sempre con voi, e con voi e con me arrivano i vostri messaggi. Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. A proposito delle dichiarazioni che ha fatto oggi Renzi lanciando la campagna referendaria da Firenze per il referendum di ottobre, quello costituzionale, e dicendo che con il suo governo in questi 2 anni il Parlamento si è svegliato da un incantesimo e le cose sono cambiate radicalmente. Quindi vi chiedevo a voi personalmente di fare un bilancio di questi primi 2 anni. Per esempio questo messaggio dice: magari radicalmente è troppo presto per dirlo, ma un cambio c'è e certamente non in peggio, c'è ancora molto da fare e spero lo si faccia, dice questo ascoltatore. Poi Giuseppe dice: il Parlamento dovrebbe fare le leggi, l'esecutivo attuarle. Il governo Renzi è stato quello che ha messo più fiducia in assoluto, facendoci spendere un mucchio di soldi a vuoto, leggi per lo più pasticciate, disgustato da questo esecutivo e dai suoi scandali. Poi Roberto da Milano: 2 anni di Renzi, ennesima occasione sprecata, tweet a parte, restiamo la Repubblica di tassa e spendi e perpetuare le ricette responsabili del nostro declino. Così la pensano alcuni ascoltatori. Tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. Adesso invece vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, anziché puntualmente alle 21 su Effetto Notte, quali sono le notizie più importanti della giornata. Stop alla quotazione in borsa di Pop Vicenza, banche a picco a Piazza Affari, e salta questa introduzione in borsa, appunto l'ingresso in borsa di Popolare Vicenza, perché non sussistono i presupposti per garantirne il regolare funzionamento del mercato. E poi questa svolta sui Marò: Girone torna in Italia per l'arbitrato, Renzi dice una notizia straordinaria, l'India però ci tiene a sottolineare decide la Corte Suprema, e poi capiremo in che termini. Renzi apre a Firenze la campagna per il referendum di ottobre, dopo 63 governi dice ora si cambia. E poi Marchionne che assicura piena occupazione a Fiat Chrysler prima del 2018. Verso Cuba, dopo decenni, una nave crociera salpa da Miami con 700 turisti per il primo storico viaggio da un porto americano verso Cuba. E poi ancora il caso di Fortuna, della bimba di Napoli. Sarà riesumato il corpo del piccolo Antonio, si allarga l'inchiesta. Caputo, l'uomo che è stato arrestato venerdì in questa inchiesta, colpito da un detenuto con un pugno. Un'inchiesta che ha tre articolazioni, anche di questo poi ci occuperemo questa sera. E poi la Cassazione che ha sentenziato che un homeless, un senza tetto, a Genova ruba per fame e quindi non è reato. Quindi vi dicevo che c'è un'importante novità nella lunga vicenda dei Marò per i due fucilieri della Marina Militare Italiana, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, vi ricordate, accusati dell'uccisione di due pescatori al largo delle coste indiane nel 2012 durante un'attività antipirateria. Massimiliano Latorre è già da qualche tempo qui in Italia per essere curato da un ictus. La novità ora è che è arrivata questa sentenza del Tribunale Internazionale dell'AIA, in realtà dovrebbe arrivare domani, però è stata anticipata dal nostro Ministero degli Esteri, che ha stabilito questa sentenza che l'altro fuciliere, Salvatore Girone, che si trova ancora in India da oltre 4 anni, faccia a sua volta rientro in patria fino alla conclusione del procedimento arbitrale avviato dal governo italiano. L'ordinanza del tribunale appunto dovrebbe essere ufficializzata domani. Fonti del governo indiano però sottolineano: l'Italia non ha interpretato correttamente l'ordine del tribunale. Non è vero che il Marin Girone è libero, le condizioni della sua libertà provvisoria devono essere stabilite dalla Corte Suprema, cioè dalla Corte Suprema indiana. In effetti poi il Ministero degli Esteri italiano ha precisato: la decisione del Tribunale dell'AIA recepisce le considerazioni legali e di ordine umanitario derivanti dalla permanenza di Girone in India da oltre 4 anni, che avrebbero potuto prolungarsi per altri 2 o 3 anni. Dice però: il governo avvierà immediatamente le consultazioni con l'India affinché si arrivi a delle soluzioni definite e concordate. Scusate la poca voce, intanto saluto la professoressa Elena Sciso. Buonasera professoressa. Buonasera a lei. Che è direttrice del Centro di Ricerca sulle Organizzazioni Internazionali Europee alla LUIS. Professoressa, quindi è effettivamente una svolta questa intanto? Direi proprio di sì, almeno in questa fase è una svolta. Poi certo bisognerà attendere che si concluda il procedimento, ci vorranno 2 anni, forse anche più di 2 anni, ma per intanto potremo rivedere in Italia anche il secondo Marò. E rispetto a quello che diceva l'India, di questa necessità di concordare, anzi più che concordare, l'India diceva spetta alla Corte Suprema indiana decidere le modalità, le condizioni, i tempi. Ma intanto bisognerà leggere esattamente i termini con cui si esprime questa ordinanza del Tribunale, cosa che faremo domani. Però è ovvio che i due paesi dovranno poi concordare le condizioni alle quali Girone dovrà rientrare in Italia. Quello che per certo, il risultato per ora, è che Girone dovrà rientrare in Italia. Le ordinanze del Tribunale arbitrale sono obbligatorie per le parti, sono vincolanti per le parti. Il Tribunale nella specie ha dato alle parti 3 mesi di tempo per concordare queste condizioni, che dovranno poi essere riferite, riportate allo stesso Tribunale. Quindi comunque è un punto fermo dal quale non può prescindersi. Girone tornerà in Italia. È chiaro che l'India verosimilmente chiederà all'Italia determinate garanzie, e quindi le consultazioni che il governo italiano si propone di avviare con l'India riguardano appunto la definizione, l'individuazione di queste condizioni che consentano il rientro di Girone in Italia, fermo restando che Girone deve rientrare in Italia. Professoressa Sciso, però Latorre, l'altro, era rientrato già in Italia, dicevamo, perché doveva curarsi per questo ictus. Sì. Il 26 aprile, quindi pochi giorni fa, la Corte Suprema indiana ha stabilito che può restare in Italia fino al 30 settembre 2016 e poi ci sarà un'altra sentenza. Nel suo caso, quindi, con questa sentenza del Tribunale Internazionale dell'AIA, vale anche per Latorre il fatto che stia definitivamente in Italia o dovrà essere... Bisognerà leggere le ordinanze. In realtà è una domanda che mi sono fatta anch'io, perché il comunicato del Ministero degli Esteri parla esclusivamente del Marò che è rimasto attualmente in India, sì, che dovrà ritornare in Italia. Io presumo che l'ordinanza riguardi anche l'altro Marò, perché insomma le giustificazioni, le ragioni che giustificano il rientro di Girone giustificano anche la permanenza di Latorre in Italia, presumo. Infatti, che pensavo, però appunto anche a me era sorto questo dubbio. Senta, adesso invece farei sentire l'ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha, diciamo, esultato con soddisfazione a questa sentenza di oggi e che si era dimesso, vi ricorderete, nel 2013 dal governo Monti come ministro degli esteri perché non aveva per nulla approvato la decisione di rinviare, una volta che erano in Italia per Natale, i due Marò, di rinviarli in India, perché lui diceva no, ci vuole l'arbitrato internazionale, ma riteneva di non essere stato ascoltato, l'ho sentito poco fa. Ambasciatore Terzi, buonasera. Buonasera, un piacere salutare gli ascoltatori. Grazie, reciproco. Senta, ambasciatore, quindi adesso che c'è stata questa svolta, almeno per il momento, poi vediamo man mano quali saranno le tappe, lei che pensiero ha fatto, che riflessione ha fatto rispetto a quello che era successo in questi anni? E lei appunto si è anche dimesso nel 2013, no? come ministro degli esteri, proprio in contrasto con la posizione di allora del governo Monti, che fece rientrare in India i due fucilieri. Sì, guardi, il pensiero è molto semplice, che la strada della internazionalizzazione e dell'arbitrato obbligatorio era quella da prendere, era stata presa l'11 marzo 2013 annunciandola a tutto il mondo, era stata buttata nel cestino il 22 marzo con quell'infame decisione di rimandare i due fucilieri di Marina, nonostante l'India stessa avesse violato l'affidavit che era stato sottoscritto dal governo italiano, e da quel 22 marzo sino all'estate scorsa è stato un prosieguo di tentennamenti, di giravolte, di marce indietro, di semipassi in avanti sulla strada dell'arbitrato, senza mai prendere, per motivi che ancora non conosciamo, la decisione di perseguire questa strada di arbitrato sulla giurisdizione, che era l'unica ragionevole e che era perfettamente compatibile, che era coerente con la Convenzione sul diritto del mare che impegnava sia l'Italia che l'India. Quindi questo è il contesto. Adesso, quando l'arbitrato è stato avviato e c'è stata la prima udienza il 4 agosto del 2015, è emerso chiaro come il sole che l'India aveva costruito tutta questa colpevolezza dei nostri fucilieri di Marina, ma che in realtà era tutta una costruzione artificiosa, tant'è vero che i documenti che l'India ha dovuto produrre su richiesta del Tribunale arbitrale alla Corte di Amburgo quel 4 agosto hanno dimostrato in modo inoppugnabile che i nostri fucilieri di Marina non c'entrano assolutamente nulla con quell'incidente. Di conseguenza gli spazi di manovra per le autorità indiane, visto che fra l'altro era cambiato anche un governo, si è maturata la condizione perché il Tribunale di Amburgo potesse decidere di rimandare Girone e di conseguenza anche la Torre, che stava già in Italia per permesso medico, ma insomma di avere i due fucilieri di Marina in Italia finché non si arriva alla decisione arbitrale. Conclusione, una tappa assolutamente doverosa da parte del Tribunale di Amburgo che da parte dell'India, perché è inimmaginabile che non adempia immediatamente al dispositivo del Tribunale arbitrale. Quindi ben venga questa decisione, arrivata con estremo ritardo, è una a chiusura almeno temporanea di una vicenda nella quale purtroppo si è fatta in questi ultimi due anni e mezzo si è fatta una confusione infernale e abbiamo manovrato a zigzag, almeno che si possa dire. Ambasciatore Terzi, mi è tutto chiaro, era stata chiarissima e coerente anche la sua posizione allora quando si dimise proprio per la decisione del governo Monti, le dice non si capisce perché, allora non ho capito bene i motivi del perché non si scelse la strada dell'arbitrato internazionale, però c'è una cosa che mi sfugge, ambasciatore Terzi, lei dice che l'innocenza di Marò è stata dimostrata, questo mi sembra che ancora forse sia da chiarire, che ci siano ancora varie tappe giuridiche da... Non è dimostrata in sede giudiziaria, perché il Tribunale di Amburgo non decide su questo, decide soltanto sulla giurisdizione, e la giurisdizione è molto probabile che venga riconosciuta la giurisdizione italiana, e di conseguenza sarà un tribunale italiano, militare o civile, a dover dire se esistono anche le prove più fumose, degli elementi fumosi della loro colpevolezza. Ma è stata dimostrata dal senso comune di chi si è presa la briga, alcuni dei colleghi, degli illustri colleghi che collaborano, che lei ben conosce, ma anche di persone, vorrei sottolineare delle persone, dei cittadini italiani che hanno fatto un'azione straordinaria in questi tre anni per chiarire la verità, e questi sono innanzitutto il generale Fernando Termentini, un generale della riserva che si è battuto ogni giorno e ogni ora perché la verità venisse portata a galla, il dottor Di Stefano ed altri esperti, ma anche i suoi colleghi giornalisti, che andando ad analizzare i documenti di Amburgo hanno dimostrato, uno, che i proiettili non c'entravano niente con quelli che hanno ucciso, sono carte pubbliche, sono quelli che hanno ucciso i due marinai, che la nave era a decine di miglia di distanza dal luogo dell'incidente, che gli orari non coincidono, che il peschereccio è stato affondato per nascondere le prove, cioè non c'è ancora una sentenza nel tribunale che dice tutto questo, ma lo capiscono anche le pietre, cioè è una verità pubblica. Nell'attesa di questa verità e contenti tutti per questa svolta, intanto io la ringrazio, ambasciatore Terzi di Sant'Agata. Ringrazio lei, a presto. Grazie. Questo ex ministro, professoressa Sciso, ci spiega quali sono sinteticamente le prossime tappe in questa vicenda? Cioè, allora, è in corso l'arbitrato internazionale, no? Quindi aspettiamo una sentenza da un tribunale internazionale su questo. Sì, ma come ricordava l'ambasciatore Terzi di Sant'Agata, la sentenza del tribunale arbitrale riguarderà la giurisdizione, cioè il tribunale è chiamato giudicare? A decidere quale dei due stati può esercitare la giurisdizione su questa vicenda della morte dei due pescatori e dell'incidente, diciamo così, dell'Enrica Lexi. In che tempi secondo lei potrebbe arrivare questa sentenza? Un paio d'anni, verosimilmente. Un paio d'anni, due anni e mezzo. Alcune fonti del governo indiano indicavano il dicembre del 2018, ma insomma diciamo entro due anni. Ci vuole un po' di tempo. Decideranno chi deve decidere per un eventuale processo. Quali dei due stati o potrà esercitare? Esatto, potrà diciamo così istruire il processo. Quindi siamo arrivati a questa comunque tappa importante del rientro, se non ci sono ostacoli da parte dell'India in Italia e anche dell'altro Marocco. Ma non credo che ci saranno degli ostacoli seri da parte dell'India. Io vorrei anche sottolineare un aspetto che mi sembra estremamente importante per il presente, ma anche verosimilmente per il futuro. Questa decisione del Tribunale arbitrale è stata presa all'unanimità, che significa anche con il concorso del voto positivo dell'arbitro indiano. Questo mi sembra un già elemento positivo. Molto positivo da sottolineare. Bene. Quindi è auspicabile che ci sia da questo momento in poi che ci sia una maggiore collaborazione tra i due paesi per arrivare alla conclusione di questa vicenda che si trascina ormai da più di 4 anni. Io non so se è stata provata l'innocenza dei Marò, sicuramente non è stato formulato nessun preciso capo d'accusa nei loro confronti. Questo significa dopo quindi che verosimilmente non c'erano gli elementi per formulare il capo d'accusa. Poi... Chiarissima, professoressa Elena Sciso, la ringrazio. Grazie e buona Grazie serata. A lei. Grazie, buona serata. Grazie. Vostri messaggi tantissimi invece sul bilancio del governo Renzi, dice per esempio Alessandro, basterebbe far riascoltare le sue interviste prima e dopo il suo incarico per far vedere cosa diceva prima e cosa ha fatto poi, ma si sa, l'italiano ha la memoria corta. E poi invece Enrico dice ha impostato molte cose, alcune fatte, Jobs Act, abolizione della tassa sulla prima casa eccetera, altre da fare, si può sempre fare di meglio, riforma della scuola, ma rispetto all'immobilismo degli ultimi 20 anni, dice Enrico, questo governo è un miracolo positivo. Un altro ascoltatore dice in questi 2 anni sono cambiati gli attori ma il film è sempre lo stesso con un regista incompetente. 349-238-6666 per gli sms e whatsapp, pagina facebook di Effetto Notte, ci sentiamo tra poco. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportage, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, mentre continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 a proposito del bilancio che vi ho chiesto del governo Renzi di questi 2 anni, visto che lui diceva oggi che questo governo ha radicalmente cambiato le cose. Piero dice un mio giudizio positivo, sono state fatte riforme, tra parentesi Costituzione, Jobs Act, Sblocca Italia, di cui si parlava da anni, Cofferati uno di quelli invece che ha solo messo veti, dice Piero. Danilo, non mi sono mai chiesto cosa può fare Renzi per il nostro paese, mi chiedo cosa posso fare io per il mio paese. Evoca un po' Kennedy, poi dice votare no al referendum di ottobre mi sembra una cosa giusta, già è partita appunto la campagna referendaria. Poi dice invece un altro ascoltatore, Renzi almeno ci sta provando a cambiare, i detrattori forse dimenticano le molte cose positive già fatte, cultura e beni artistici, già si vedono i risultati, Jobs Act, Sblocca Italia e tante altre, ma per vedere gli effetti ci vuole un po' di anni, ma lo sanno costoro come era messa l'Italia da decenni di inefficienza e clientelismo, così scrive Leo. Un altro messaggio, un governo presieduto da un parlamentare che con il suo modo di fare ignora completamente le osservazioni e le perplessità avanzate dal proprio elettorato, è un governo che merita soltanto di essere bocciato senza se e senza ma. Quindi di varie angolazioni, diciamo, i vostri messaggi, continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte e i WhatsApp e gli SMS al 349-238-6666. Tra poco affronteremo un altro argomento molto delicato di cui già ci siamo occupati venerdì. Intanto però, se avete acceso la radio in questo momento, volete sapere le notizie più importanti, sono queste. La vicenda dei Maroni, abbiamo appena parlato, la Corte dell'AIA ha deciso che Girone tornerà in Italia. Renzi commenta, è una notizia straordinaria, ma il braccio di ferro non è ancora finito. Banche, salta la quotazione in borsa della Popolare di Vicenza, oltre il 99% verrà sottoscritto dal Fondo Atlante. Politica, Renzi apre la campagna per il referendum e dice dopo 63 governi ora si cambia. Il caso della bimba di Napoli, ne parleremo tra pochi istanti. Migranti, la Danimarca estende di un mese i controlli alle frontiere. Sentenza della Cassazione, a Genova un senza tetto ruba per fame, non è reato, nulla, quindi la condanna per furto di 4 euro per wurstel e formaggio. E per il calcio in Gran Bretagna, butta male per il Leicester. Questa squadra che è già stata definita entrata in una specie di favola, che aveva cominciato il campionato per la salvezza, rischia di diventare campionessa d'Inghilterra, però sapete come sono i vari calcoli, adesso ci sono in campo in Gran Bretagna Chelsea-Tottenham, se perdesse il Tottenham vincerebbe automaticamente questa squadra il Leicester, però vedo già che è 1-0 sul Chelsea, ce ne occuperemo dopo. Non dobbiamo tollerare gli abusi sui minori, dobbiamo difendere i minori e dobbiamo punire severamente gli abusatori. È intervenuto anche il Papa su questa vicenda orrenda di cui abbiamo parlato venerdì, perché venerdì c'è stata una svolta nelle indagini sull'omicidio della piccola Fortuna Loffredo, detta Chicca, la bimba di 6 anni morta dopo essere precipitata dall'ottavo piano di un palazzone nel Parco Verde di Caivano, nell'Interland di Napoli, nel giugno 2014. Per quell'orrenda fine, venerdì, questa era stata la svolta, era stato arrestato Raimondo Caputo, compagno di una vicina di casa, amica tra l'altro della mamma della piccola Fortuna, già noto alle forze dell'ordine per abusi e molestie nei confronti dei bambini. A questa svolta si è arrivati non certo per la testimonianza dei tantissimi adulti che popolano questo grande agglomerato, ma per i bambini che hanno alzato la testa e che si sono rifiutati. Diversi bambini pare siano stati violentati e abbiano subito gli stessi abusi, e adesso c'è anche il sospetto sul caso di un bambino che è morto l'anno prima di Fortuna, un po' in circostanze simili, anche lui precipitando da un piano alto di questo palazzo. E appunto, vi dicevo, le testimonianze sono state di questi bambini, soprattutto di un'amichetta di Fortuna che rischiava di fare la stessa fine. L'inchiesta quindi non si ferma, prosegue e anzi è articolata, perché ci sono vari filoni di questa inchiesta. Ne parliamo con Daniela De Crescenzo, che è giornalista del Mattino. Buonasera Daniela. Buonasera. Quindi ci sono già tre filoni di inchiesta, no? Quello sul abusi sessuali, omicidio, poi c'è anche un'inchiesta che riguarda l'aggressione che ha subito quest'uomo in carcere, dove doveva essere protetto praticamente, no? Sì, senz'altro, ma la vicenda è molto contorta, è molto complicata. Potremmo ricominciare dall'inizio, e l'inizio è la morte di Antonio, il primo bambino precipitato. Questo bambino è figlio della compagna dell'uomo arrestato, sì. Il quale però non era presente al momento di questa prima morte. Quindi, come vedete, la faccenda è molto ingarbugliata, cioè ci sono due bambini precipitati dallo stesso palazzo a 2 piani di distanza. l'uno è figlio della donna accusato di aver collaborato alla morte dell'altra. Infatti, Daniela De Crescenzo, questo, scusami se ti interrompo, sentiamo proprio su questo l'avvocato Angelo Pisani, che era oggi a effetto giorno con Simone Spezia, che è l'avvocato, uno degli avvocati della famiglia della piccola Fortuna, che dice probabilmente c'è proprio una rete di pedofili, come anche ipotizza questa inchiesta. Sentiamolo. Purtroppo sono trascorsi circa 3 anni, ma penso che sia il caso sia di sistemare il corpo per fare ulteriori indagini, eventualmente anche medico-legali e cliniche, sul corpo di questo povero bambino, ma soprattutto chiediamo che ci sia un intervento ulteriore dei RIS, così come è avvenuto per Yara, per tutti i bambini italiani, dove le indagini si sviluppano a 360 gradi. Vogliamo che vengano fatte anche per i bambini napoletani e che si riesca a capire quali sono le coincidenze e i nessi tra la morte del piccolo Antonio, la piccola Chicca e tanti altri bambini che vengono abusati ogni giorno in quei luoghi, dove siamo appena all'inizio di una pagina di orrori che saranno tanti e dolorosi anche nei prossimi giorni. Avvocato, mi sembra di capire che quello che lei sta delineando nel parlarci di tutto questo, l'ipotesi addirittura di una rete. Sicuramente possiamo parlare di una rete di pedofili, perché ormai abbiamo dei numeri tali da giustificare questa amara e grave dichiarazione. Quindi, Daniela De Crescenzo, già si parla appunto del palazzo degli orrori, no? Perché pare che ci sia una rete. Infatti poi l'avvocato è proprio quello che ha chiesto Angelo Pisani di riesumare la salma di questo bambino di 4 anni, Antonio Giglio, che è morto l'anno primo di Fortuna, nel 2013, che sarebbe figlio, appunto, come spiegavi... No, sicuramente. Sì. È figlio della compagna dell'uomo arrestato. L'altro giorno. Su questo non c'è dubbio, come non c'è dubbio sul fatto che l'uomo in quel momento non fosse in casa quando è morto il primo bambino. Inoltre sappiamo che nello stesso palazzo qualche mese fa sono stati arrestati un marito e una moglie accusati di violenza nei confronti di un'altra bambina, della figlia della donna. Quindi i casi, insomma, si moltiplicano. Quale sia il legame, il collegamento tra di loro è l'oggetto dell'inchiesta che i magistrati stanno portando avanti. Infatti, dicevamo, i filoni sono questi di questa inchiesta. Il primo che riguarda gli abusi e l'omicidio. Il secondo filone, i favoreggiamenti di questi turpi, atroci reati, perché evidentemente se lui non c'era, evidentemente c'è questa rete anche di omertà, no, tra queste persone, visto che sono stati bambini a tirare fuori queste storie. E poi la terza riguarda l'aggressione dell'arrestato in carcere a Poggioreale, Napoli, perché reati di questo tipo implicano che le persone, che gli accusati vengano separati dagli altri carcerati, no? Perché c'è sempre il rischio di aggressione quando ci sono reati sessuali nei confronti dei bambini. Ci si chiede come mai sia stato aggredito. Certamente anche questo è un aspetto che bisognerà chiarire. Naturalmente fuori di quel palazzo, dove invece ha goduto, secondo me, di diverse coperture, il Caputo rischia grosso, perché il reato di pedofilia, il reato di un omicidio di una bambina abusata sono dei più atroci, no? E quindi ovviamente l'uomo già era stato aggredito in altri momenti, in altri contesti, in carcere evidentemente dovrebbe essere protetto e anche sorvegliato. Ripeto, in questa situazione ci sono tanti elementi da prendere in considerazione. Per esempio, l'avvocato Pisani ha ricordato che sono state sistematicamente disattivate tutte le microspie per coprire i pedofili. Può darsi, però sappiamo anche che in quel palazzo c'è chi vende droga, ci sono stati diversi arresti anche per questo reato, quindi evidentemente molti non vogliono che si faccia chiarezza su quello che accade lì. Quindi una situazione veramente di gravissimo degrado. Grazie intanto, Daniela De Crescenzo del Mattino, poi purtroppo ci saranno sviluppi, anzi lo speriamo, nel senso che si vada avanti con l'inchiesta e vengano fuori nuovi elementi. Grazie Daniela. Grazie a voi. Ciao e buon lavoro. Viabilità.

Rieccoci insieme adesso per parlare di una storia calcistica che è stata definita una favola, adesso vediamo se lieto fine o meno, che riguarda la squadra inglese dell'Leicester. A due giornate dalla fine, questa squadra inglese allenata da Claudio Ranieri, quindi da un italiano, è a soli due punti dal diventare per la prima volta nella sua storia campionessa d'Inghilterra. Ne parliamo con la nostra Giorgia Scaturro dalla Gran Bretagna. Giorgia, ci spieghi perché dovrebbe essere una favola e che cosa sta succedendo in campo? Sì, buonasera. Intanto chiedo scusa se sentite i rumori di sottofondo, ma come tutte le partite storiche che si rispettano qui in Gran Bretagna, la sto guardando in un pub. E molto bene. Siamo a nord di Londra, quindi in pieno territorio del Tottenham, che stasera sta giocando contro il Chelsea, un derby in casa del Chelsea a Stamford Bridge, scusate. E devo dire che c'è molta gioia perché il Tottenham sta vincendo 2-0. Una cosa già da record, perché il Tottenham non vinceva a Stamford Bridge dal 1990, quindi già di per sé crea un po' di tensione per la sorte dell'Leicester. Ricordiamo che il Tottenham non deve vincere contro il Chelsea per celebrare stasera direttamente la sua vittoria dello scudetto. Però è già 2-0 e non so, potrebbe essere ribaltata, per carità. Sì, diciamo che la nazione intera resterà in fibrillazione ancora per un po', per questo risultato che, come dicevate voi, è storico. Parliamo di una squadra, il Leicester, che è stata un po' raccattata con 30 milioni di sterline, è costata un quinto delle altre squadre ai top della classifica. È una squadra che è allenata da un italiano ed è proprietaria di un miliardario thailandese. Quindi che soltanto ad agosto era data dai bookmaker 5.001, quindi ha ribaltato un po' tutte le profezie che si potevano fare, e dovremmo aspettare ancora un po' per capire se diventerà la beniamina dello sport nazionale. Senti, sono più detrattori o sostenitori, Giorgia Scaturro, lì? Qui devo dire che anche se sono tutti per il Tottenham, c'è un grande rispetto per il Leicester. Tutti pensano, le persone con cui ho parlato, pensano che se lo meriti, perché è riuscito appunto a ribaltare tutti gli ostacoli del caso. Soltanto lo scorso anno doveva essere in recessione, essere appunto... rischiare di uscire da questo campionato, quindi pensano che sicuramente è una squadra che se lo merita di vincere, e dobbiamo aspettare ancora sicuramente altri 45 minuti. Staremo a vedere, c'è ancora forse tutto il secondo tempo. Grazie a Giorgia Scaturro dalla Gran Bretagna, noi ci sentiamo per gli aggiornamenti alle 22.